Stai su Radio Wombat. Questa è Hot Radio Wombat. Hot Hertz. E buonasera amici che ci ascoltate ormai da tanto, benvenuti a una nuova puntata di 8 Hertz qui su Radio Wombat. Stasera la puntata è una delle tante che spesso faccio su un certo tipo di musica sperimentale, su nuove... che poi già da un po' di anni che vengono proposte nuove forme e nuovi contenuti musicali, spesso poco musicali e molto più vicine al rumore o al suono in generale. Infatti questa settimana mi è piaciuto chiamarla Seeking Sensation Scale Music, ovvero cercando una musica sensazionale anche con le scale. E questo perché non di sensazionale c'è tanto, ma poi di scale musicali, di cose tecniche, stasera ce ne saranno ben poche, ma non per questo significano che la musica non è importante. Anzi, negli ultimi anni la tecnica si sposa più con altri concetti. Negli ultimi anni proprio non è giusto, visto che già dal Novecento, anche in classica, in contemporanea, i compositori cercavano nuove strade, sempre più all'avanguardia, sempre diversi rispetto a tutto quello che è stato fatto prima. Questo Seeking Sensation Scale Music viene da una locandina che avevo trovato dall'interno di una cassettina di un progetto che poi ascolterete, che è di Contagious Orgasm, che è un giapponese, di cui poi ne parleremo. E così è stato un po' casuale. Intanto inizio subito con il primo brano che introduce un po' alle sonorità della serata, che è di Esplendor Geometrico, che è un gruppo spagnolo industrial che si è formato nei primissimi anni 80, poi ha avuto varie vicissitudini, tante cose sono uscite, state divulgate dopo, e comunque i membri erano Arturo Lanz e Gabriel Rianza e Gian Carlos Sastre, e poi in realtà ci è rimasto solo Arturo Lanz, accompagnato più tardi negli anni 90 da Saverio Evangelista, che è un personaggio un po' più conosciuto nel mondo della musica contemporanea. Questo pezzo è tratto da uno dei primissimi album, credo il secondo. L'album si chiama EG1, è del 1982, appunto era stato pubblicato in cassetta, poi dopo ridigitalizzato e messo su CD. Il pezzo si chiama Neuridina e già qui vi potete fare un'idea sulla forma pura che può avere una composizione o quasi un loop. Comunque sto parlando troppo come al solito, buon ascolto. Thank you. Ecco, erano gli Splendor Geometrico con Neuridina, un pezzo dell'82, un pezzo che ha pochissimo di umano e molto di macchina e di robotico, volendo, cercando un po' delle strade differenti in Spagna tra i gruppi principali che facevano un industrial con un perché meno estetico e più concettuale. Andando avanti, c'è un gruppo che a questo giro dalla Spagna si passa alla Germania, che si chiamano Torofon, si chiamavano, anche se ho saputo che poi si sono riformati, che era tra i membri fondamentali Anton Knippert, Genevieve Pasquier, e anche loro sono diventati un gruppo cult, pur avendo fatto poche cose. Tante cose appunto sono state rieditate da etichette più attuali. Sono comunque formati negli anni 90, per cui c'è già una decade di differenza e di ricerche priori degli Splendor Geometrico rispetto ai Torofon. Il pezzo in questione si chiama Anti-Savak, tratto da Final Movement, che era un disco del 2001, poi ripubblicato dall'Antzen, che se avete ascoltato qualche settimana fa una puntata più sulla rhythmic noise e roba più harsh e techno, è una delle etichette portanti tedesche di quel genere. Comunque ora ci ascoltiamo intanto Anti-Savak dei Torofon. Yeah! e siamo comunque in lande ritmiche, almeno per ora, e anche nei brani, in qualche brano successivo, la componente ritmica è la proprio quasi la fonte primaria da dove parte il gioco dell'industrial e della sperimentazione, almeno per questi soggetti. Tutto è partito un po', la puntata è partita proprio dai Torophone, perché li ho ascoltati settimana scorsa, da tanto che non lo facevo. Ho detto, però facciamo una cosa che usi un po' queste timbriche, questi suoni metallici e metalloidi. Il pezzo successivo è un ponte tra i Torophone e il brano che ci sarà molto più di un gruppo molto più famoso, è proprio di Genevieve Pasquier, che ha fatto, oltre a essere membro dei Torophone, ha anche una carriera solista. Il brano in questione si chiama L'apparenza è tutto, è tratto da un disco del 2006 che dovrebbe essere il secondo, se ho capito bene, sempre uscito per Ant Zen, e si chiama Soap Bubble Factory. Thank you. E questa era Genevieve Pasquier, appunto, che una delle dei fondatori dei Tarfon, che ha comunque un suono più aggiornato, più neuronale, più elettronico rispetto alle cose più industrialoidi dei Tarfon. Forse c'è un problema col pezzo dopo, sto cercando un po' di capire. Comunque il pezzo dopo è degli Sturzende Neubauten, che è un gruppo famosissimo di Berlino Ovest, tra i primi, sono quelli, se non li conoscete, sono quelli, sicuramente avete visto qualche maglietta a giro di qualche essere umano che ha questo logo, che è un marchio di fabbrica, una specie di quasi incisione primitiva, di un disegno primitivo di un omino con una testa grande, cerchiata, con un pallino in mezzo, a ribadire il concetto proprio loro di primitività dell'utilizzo del suono. Infatti loro divennero famosi perché perché tanti strumenti che usano sia in registrazione che dal vivo sono autocostruiti. Poi negli anni via via hanno avuto una ricercatezza diversa, anche utilizzando strumenti più consoni. E il pezzo in questione è sempre ritmico, è tratto da Ende Noi, che è un disco del 96 che è uscito per la Mute, che è un'etichetta molto grossa inglese. E si chiama Installation numero 1, non so in tedesco come si dice, perché spesso hanno i testi proprio in lingua tedesca. È una sorta di viaggio in una trance, un po' simile alla trance di Messe di Genevieve Pasquier, ma è molto più suonata di quanto uno pensi. Cioè le dinamiche sono curate da una chitarra effettata, anche tutta roba molto semplice, ma che ai tempi comunque spiazzò e spiazza ancora tuttora. Trovo che gli Insurgenti siano un gruppo tra i più geniali nella storia, almeno di un certo tipo di musica che non parte dal colto, anche se poi via via è diventata, grazie a un sacco di riconoscimenti che hanno avuto. Mi ricordo a Torino per il trentennale, se non sbaglio, fecero intervistati proprio al Goethe Institute, per cui erano diventati molto grossi, ecco, e importanti per la musica contemporanea. Spero si senta tutto a modino. sapei. Instruzione noi Bauten con installazione numero uno, o in tedesco non so come diavolo si dice perché non lo conosco, il pezzo è andato bene. Gli insorgenti su 8 Hz a Radio Wombat. Volevo segnalarvi, ricordarvi un po' i social, appunto c'è un Facebook, basta scrivere sulla finestra del cerca Radio Wombat Firenze, lo trovate, il Twitter Radio Wombat Fi. Il sito ovviamente lo conoscete, che è wombat.noblogs.org, e la mail importante per le vostre dichiarazioni sui vostri commenti e proposte, che è posta wombat, ovviamente wombat sempre con la W, posta wombat @insiberia.net, ricordatevelo. Quest'anno è già passato un anno di vita della radio, ci sono programmi nuovi, altri ne inizieranno e sono ancora in fase di aggiustamento delle puntate. Comunque, tra le nuove trasmissioni ricordiamo Coming Song, che è un viaggio, sono viaggi musicali nella storia del cinema e viceversa, quindi colonne sonore e film e tutto quello che c'è nella distanza tra nell'incontro tra questi due concetti, insomma. 13 Boots 20 sul punk di strada, Loi e roba affine. Senza frontiere, che addirittura qui si parla anche di corrispondenti esteri in tutto il mondo, sull'internazionalismo, le lotte, le culture e la storia del mondo. Passaggi e poi le solite, non per sminuirle, le vecchie ormai puntate tradizionali, come Passaggio a Nord-Ovest, che è un radiogiornale più che altro sui problemi della piana, della periferia nord-ovest di Firenze. Mortal Wombat deve ancora ripartire, ma ripartirà. Coccoli al silicio, che è la trasmissione più cyberpunk, volendo, più dedicata alle tecniche computeristiche, AGG vari, molto interessante. Soul Time sul Northern Soul. Fuoco alle polveri, un programma contenitore con interviste, recensioni di libri e musiche varie. L'Accademia della Brusca, che questa settimana vergognosamente ha saltato, ma ritornerà in pompa magna, che è un programma di linguistica in una chiave molto particolare. Slick Chick con di musica, con sempre un filo conduttore ben preciso, musica e racconti su proprio sul tipo di puntata che viene fatta. E poi non mi ricordo più, ma credo che si siano dette quasi tutte, non vi offendete programmatori, radiologi vari, se ho scordato qualcosa. E si riparte con la puntata. Ormai il ritmo lo lasciamo un po' in disparte per un po', e con Contagious Orgasm, che tipo che giapponese che si chiama Hiroshi Hashimoto, attivissimo negli anni '80. Sapete, quando si parla di giapponesi che fanno musica estrema, credo che siano molto più estremi di qualsiasi altra popolazione. E quindi già dall'87 attivissimo in tutto quello che riguarda la musica elettronica, il noise, il rhythmic noise, l'ambient, l'industrial, tutto in una forma abbastanza particolare. Tante cose sono veramente dei loop molto incasinati, riprodotti con aggiunte di suoni, un po' come questo pezzo che si chiama DD Out, tratto proprio dal primissimo lavoro. Non era proprio un disco, perché uscì in cassetta anche questo, come tante cose di stasera. E il disco in questione si chiama Impregnate. Ascoltate un po' il Giappone cosa proponeva già dagli anni '80. questo era il suono di Contagious Orgasm negli anni '80, quasi un rito abbastanza funereo, diciamo. E, parlando di riti, volevo proporvi un solo project di un artista italiano, perché anche in Italia vengono fatte belle cose, e è il caso di Angelo Guido di Brindisi, che ha questo solo project che si chiama Meanwhile in Texas. Ha fatto vari dischi anche con altre persone, tra le etichette che lo hanno cercato e prodotto sono la Triple Moon Records di Lione, per cui internazionale e luce sia. Ha collaborato con Skunk Arcade, che sarebbe Paolo Colavita, in un paio di dischi suoi. E però il pezzo che vi metto è l'ultimissima cosa che ha fatto insieme a Banished Pills, ovvero Edoardo Cammisa, che si chiama Black Ritual. Sono due lunghe tracce, sempre a fondo esoterico, uscite per Fuck Label, Fuck Mastering, che è un'etichetta do it yourself belga. E la cosa interessante è che appunto almeno il primo pezzo che vi metto ha un titolo un po' impronunciabile, che si chiama Quia Utl, che è una divinità azteca legata al calendario, dovrebbe essere, se ho capito bene, la divinità della pioggia, è quasi a significare che, leggendo un po', a stimolare un dio che stimola la conoscenza e il viaggio, piuttosto che discorsi, concetti terreni, ultraterreni, come per esempio lavorare e fare soldi. Per cui, insomma, è una cosa simpatica anche da capire, se l'ho compresa bene. Il pezzo è lunghino, sono quasi 10 minuti, è la prima traccia. Lo saluto sperando che venga a suonare presto nei dintorni toscani e di Firenze. Meanwhile in Texas, Banished Pills con Quietl, se l'ho pronunciato bene. Thank you. Meanwhile in Texas and the Banished Pills, ovvero Angelo Guido e Edoardo Cammisa, per questo trippone di pezzo lungo, ma io sono per gli ascolti dei brani lunghi che dicono, aggiungono sempre qualcosa in più rispetto a delle strutture più pop, e questo era un viaggio scuro sì ma magico, scandito da questo bordone lunghissimo che sarebbe un po' la traduzione del drone che oggi va tanto di moda come, come termine, e farcito di Fields Recordings, ovvero registrazioni su campo, registrazioni ambientali di quello che succede un po' a giro o in alcuni momenti in dei luoghi particolari, e quindi insomma mi è piaciuta molto la cosa, ecco. E, altro pezzone lungo a sto giro di un gruppo stra mega conosciuto come i Throbbing Gristle, che sono appunto tra i pionieri dell'industrial. Non riesco mai a parlarvi di Throbbing Gristle, che ci sarebbero veramente ore e ore di discorsi da fare sul gruppo, su Genesis Peorage, sugli altri, che purtroppo Peter Christopherson se n'è andato anni fa. Non vedremo mai più Throbbing Gristle, anche perché è stato deciso di non continuare più. Già tanti anni prima dissero che la missione era finita, ma Genesis Peorage ha proprio lasciato la band, che ormai sarebbe solo di Chris & Cose, che tra l'altro fanno i dischi da soli, insomma. E questo pezzo è un pezzo live, un live per me particolare, perché era il live a Torino del 29 giugno del 2005, quando li ho visti la prima e l'ultima volta, e fecero ben due spettacoli, uno sul presto, verso le 7, le 8 mi pare, e uno sul tardi, alla fine di tutto il festival, che era il Traffic, che quell'anno fu veramente stupendo. Ci fu anche Aphex Twin, tante bellissime cose, i MCM, una roba del genere, non mi ricordo la pronuncia, lo spelling corretto. E il pezzo si chiama Rabbit Snare, che poi uscì nel 2007 in Part 2 di Endless Knot. È già, parlando appunto di forme e contenuti, sono dei Throbbing Gristle parecchio diversi dalle prime cose, sono molto più puliti ma sempre lisergici, sapevamo benissimo marcare il segno. Io mi ricordo che a Torino le persone eravamo praticamente quasi tutti estasiati per non so neanche cosa in realtà, ma trascinarono la folla nel capannone, che era strapieno, anche senza nessun bisogno di video e di luci. C'erano delle luci fisse, quelle erano, quindi non c'era nessun gioco dietro, ma c'era solo la musica e loro da vedere e gustare. Mi ricordo Genesis Peorage era vestito con un completino in latex bianco da infermiera e beveva il vino bianco, era fantastico. Quindi Rabbit Snare sembra quasi un pezzo jazz industrial, non si capisce bene. Comunque era una nuova forma di quelli che erano i nuovi Throbbing Gristle, che in realtà erano sempre loro come i soliti quattro. E quello che erano i Throbbing Gristle nel 2017, secondo me è un brano che riuscirà a trasportarvi, anche se trasmesso a una radio come quella di Radio Wombat e in un programma come 8 Hertz. Buon ascolto. Thank you. got you a key, so you had a home. I got you a name, so you could be known. I got you sweat up, so you could be blown. Oh, I wanted you to know you weren't alone. It was ever so tough, ever so tough, ever so tough. Never enough, never, ever, ever, ever enough. Never, ever, ever, ever enough. Never, ever enough. I guess you missed. Qui Trombin Gristol hanno mandato veramente in ipnosi collettiva tutto il pubblico, e si capisce il perché, perché questo pezzo, come tanti dell'ultimo periodo, sono meravigliosi, e è meraviglioso, e viene appunto, si sente anche un percorso di 25 anni e più trascorso tra i primi Trombin Gristol e i progetti che hanno avuto, come appunto l'Ipsy TV, i Coil, Carter e tutti nei loro lavori a braccetto di Chris Carter e cose i fanni tutti. E, tra l'altro, purtroppo, notizie di una settimana così, ho letto che Genesis Piorge non sta molto bene, che ha una sorta di un tipo particolare di leucemia e si dovrà curare, ma comunque non è abbattuto e preso bene, e noi gli auguriamo un felice ritorno e una guarigione perfetta, e è sempre ben voluto, almeno per gente come me, su questo pianeta, che sarebbe un po' più brutto senza di lui. E, ricordo un po', siamo alla fine, il brano dopo è lunghino, tanto per cambiare, però intanto vi ricordo cosa c'è il fine settimana in qualche posto. Qua a Firenze si parte da domani, venerdì 10 novembre, al Next Emerson di Via di Bellagio, con Exchange Cipher dalle 19 alle 21, e una versione ridotta di Breaking, Soul, Funky, Disco e Rap, una sorta di aperitivo musicato a suon di anzi, muovendo ogni tipo di arto, un po' breaker, diciamo. Alle 17.30 in Viale Corsica c'è la presentazione del libro Esiste un mondo a venire, con un concerto hip hop più punk generico, non abbiamo avuto ricevuto altre informazioni. Sabato 11 novembre invece, sempre al Next Everson, c'è una serata del collettivo anarchico e libertario, che inizia alle 18 con l'incontro con il collettivo Mutuo Soccorso e Libertà d'Espressione di Bologna, e alle ore 20 la cena, e alle ore 21.30 la presentazione del libro Grande Realtà Immaginaria, con con l'autore Stefano Bettini, che sarebbe il generale, e dalle 23 il generale suonerà in Dance Hall insieme a Mark One e Supa G. E l'ultimo pezzo è sempre un live spietato, rumorosissimo, per cui vi spaccherà l'impianto, ed è un live di Alec Empire nel periodo violento dopo dopo il break con gli atleti nigeriani. Lui fece un disco bellissimo nel 2001 che si chiamava Intelligence and Sacrifice, che era un po' post Atari e Gerard come suoni, forse ancora più violento hardcore, e il brano è tratto da in realtà un video che uscì in DVD, che era un live del 2002 che si chiama Death Favors the Enemy. E ricordo che Alec Empire è il fondatore della Digital Hardcore Recordings, berlinese, come berlinese lui, tra i primissimi fautori proprio del digital hardcore, ovvero pensate all'hardcore quello classico, però con i ritmi tiratissimi della drum and bass e della techno hardcore, appunto. Ma oltre a fare quello, è anche un DJ, ha fatto anche tante cose, anche mid tempo, slow tempo, un po' di tutto, anche electropunk. Fece un bellissimo disco qualche anno fa, non mi ricordo il titolo. Iniziò, i suoi primi lavori sono del 91, per cui insomma è un veterano nel settore della musica dance e non. Il pezzo comunque si chiama New World Order, che appunto in quegli anni lì era ancora più calda la faccenda. È proprio quello che sarà sempre il nuovo ordine mondiale, cioè dei pochi che vivono nell'ombra e che mantengono le redini del mondo in un modo completamente sbagliato. Cioè, per loro è giusto, ma lo guidano verso la morte e la distruzione per una sete di potere che non ha fine. E il testo è molto esplicito e frenetico, volendo, ma comunque bello tosto. Per esempio, appunto, questi illuminati che lui chiama, come si vogliono chiamare loro, questi illuminati dentro la società, e non sappiamo chi sono, non lo sapremo mai, manipolano ogni nostro modo di vivere e ci porteranno a un silenzio intimidato, e ci controlleranno sempre di più in modo totalizzante, appunto verso la fine di un mondo che è già fottuto, diciamo. Comunque, Alec Empire, trovate anche il testo, New World Order, tratto da il live del 2002, con una lunga coda. Vabbè, non vi anticipo nulla. Comunque, ascoltatelo tutto, che vale la pena, alzate lo stereo così lo spaccate. Noi ci aggiorniamo a settimana prossima. Ciao, grazie. We'll be right back. A new world order.